trovare Lampedusa, vado pesca Angela C. Angela C, avanti. Costa, siamo qui fuori dall'isola di Corigia, c'è una barca turca buttata, sono in mare qui, noi siamo fermi qui. Stanno arrivando le pesche, rimanete fermi là e se potete dare... Che gente in mare qua, va bene, va bene, va bene. Siamo qui comunque noi, siamo attaccati quasi, c'è tutta la gente in mare. Va bene Angela C, va bene, stanno arrivando le vedette. Bene, buongiorno. Sì, guarda, sono la 303, stiamo recuperando un sacco di gente anche qua, non ci possiamo muovere. Ciao Giulio, sono Maddalena. Sto partecipando alla marcia che va verso la porta d'Europa. Ci sono tante persone, in particolar modo bambini. Ecco, chiaramente ci sono tantissime scolaresche e molte persone appartenenti a diverse organizzazioni, tra cui l'Organizzazione per i Migranti Internazionale, Save the Children e Medici Senza Frontiere. Ci sono anche diverse televisioni. Quando ti invio, cerco di inviarti qualche video, se su un video vedi libertà era restare, è perché è stato fatto un gemellaggio tra i comuni di Marzabotto e Lampedusa, perché il CIE di Marzabotto coincide con in questi giorni e quindi hanno fatto un gemellaggio tra le due realtà. A presto, ciao ciao! Allora, Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, è la voce a cui affidiamo il racconto da Lampedusa per questo 3 ottobre 2019. Giovanna, sono passate da poco le 4, che tempo fa a Lampedusa, lì da voi? In questo momento fa caldo, è uscito il sole, ma ieri sera c'è stata una bella pioggia, abbastanza intensa. Diciamo, durante l'ultimo sbarco, diciamo, in ordine di tempo, perché è stato uno sbarco ieri sera e ha piovuto veramente tanto. Diciamo, in questo periodo ce ne sono stati diversi, diciamo, di questi sbarchi autonomi, diciamo così, spontanei. Noi però siamo appunto qui a Lampedusa, come oramai negli ultimi 6 anni, per partecipare alle attività nell'ambito della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. E infatti... Quindi, Save the Children, come altre organizzazioni, ha organizzato dei laboratori rivolti a dei ragazzi provenienti da tutta Europa. Nello specifico il nostro laboratorio era proprio sui minori stranieri non accompagnati specifici e l'oggetto era l'identificazione e lo straniamento, nel senso l'obiettivo era cercare di far comprendere a questi ragazzi provenienti da tutta Europa cosa provano, chi sono questi ragazzi che sono costretti a lasciare i loro paesi, ad attraversare un continente, a due continenti, a rischiare anche la vita in mare. Hanno cercato quindi i nostri operatori di farli mettere questi ragazzi nei panni dei loro coetanei, per creare appunto un'opera di sensibilizzazione e per cercare appunto nell'ambito generale, insomma, tutte queste attività hanno un po' l'obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza. E infatti Save the Children è stata invitata dal Comitato 3 Ottobre che ha organizzato e che coordina le attività per commemorare la giornata del 3 ottobre e le attività sono iniziate già dal 30 settembre, se non sbaglio, da lunedì? Sì, ci sono stati questi laboratori che si sono già conclusi perché invece oggi proprio è stata la giornata dedicata alla memoria, ovviamente essendo proprio oggi l'anniversario, per cui c'è stata il consueto corteo fino alla Porta d'Europa e poi invece il momento, diciamo, molto toccante, emotivamente difficile, quando, diciamo, invece con le barche messe a disposizione dalle varie istituzioni dei pescatori ci si è recati sul luogo proprio in cui è avvenuto il naufragio per commemorare le 368 vittime e lanciare una corona di fiori. Veramente un'emozione molto forte, perché tra l'altro c'era oggi il mare mosso, ma diciamo niente di particolare, uno già si immagina, noi eravamo navi, diciamo, in barche molto grandi, protette, cosa devono avere provato e cosa provano le persone che invece attraversano questo tratto di mare con barchette molto piccole, con dei gommoni, quindi sicuramente non è in sicurezza. E poi anche sensazioni carte di dolore per che si rivive la morte di queste persone e di rabbia perché erano praticamente arrivati, erano la porta era lì davanti, sembrava di poterla toccare con mano. E quindi questo è stato uno dei momenti sempre più emotivamente diciamo, coinvolgenti. E per cui diciamo, la giornata della memoria è questa, è una giornata del ricordo, è una giornata in cui però ovviamente devono anche scaturire delle riflessioni. Quel famoso e tragico 3 ottobre del 2013, dinanzi a quelle centinaia di corpi di donne, uomini e bambini, tutti italiani, europei, le istituzioni dissero mai più dovrà accadere qualcosa del genere. E invece purtroppo questo non è stato, perché sappiamo che da allora, in questi 6 anni, i no casi se ne sono ripetuti tanti e tanti, sì. E per i numeri diciamo che noi conosciamo, perché magari potrebbero anche essere più alti, almeno 15.000 persone in questi 6 anni hanno perso la vita. Hanno perso la vita in mare, risultano dispersi nel Mediterraneo centrale nel tentativo di attraversarlo per raggiungere l'Europa. E tutto questo veramente sono numeri da guerra, diciamo, è un'ecatombe. E ci si chiede perché? Perché? Why again? Per questo abbiamo lanciato... Questo è l'hashtag... Esatto, questo è l'hashtag che avete lanciato voi, c'è spazio per la rabbia, però c'è spazio anche per il futuro? La proposizione, assolutamente, ma deve esserci assolutamente, perché chiaramente di fronte al ricordo, di fronte a tutte le tragedie che abbiamo visto succedersi in questi anni, perché siamo... Save the Children è da più di 10 anni, dal 2008, che è presente con i suoi team nei principali luoghi di sbarco, per cui è capitato di vedere tante tante volte arrivare delle salme, quindi corpi senza vita, oppure sentire, ovviamente raccogliere le testimonianze atroci delle persone che avevano rischiato la vita, che avevano visto morire persone accanto a loro. Quindi dinanzi a tutto questo allora si chiede che cosa si deve fare, perché diciamo, è impossibile accettare di rimanere inermi, di essere testimoni inermi di queste morti in mare. Per cui allora sicuramente c'è un invito all'Italia e all'Europa, perché diciamo, si è svelto di recente il vertice di Malta, che può rappresentare il primo passo, sì, per l'avvio di un'azione europea condivisa, che è assolutamente necessaria, deve essere condivisa e concreta, ma può essere un primo passo a condizione che il Consiglio europeo di giustizia e affari interni, previsto per il prossimo 7 e 8 ottobre, impegni concretamente i Paesi membri nel garantire il pieno assoluto rispetto del diritto internazionale. Uno dei punti deve essere quello di riconoscere, anche alla luce dell'allarme crescente delle Nazioni Unite, che la Libia oggi versa in una situazione terribile, disastrosa, di fragilità e instabilità, e che non può essere in nessun modo considerata un porto sicuro. Sì. Per cui sicuramente allora che cosa si chiede? Noi chiediamo sicuramente che appunto venga portata avanti questa azione europea condivisa. Quindi riconoscendo la Libia un porto non sicuro, creando delle vie sicure legali di accesso dalle aree di crisi e di transito, considerando la fondamentale diciamo, i salvataggi in mare, che terminano però quando viene attribuito un porto sicuro, e considerando anche un'azione europea condivisa nell'ambito dell'accoglienza, di essere un'azione diciamo, a 360 gradi, perché chiaramente queste persone continuano a partire, sebbene ovviamente i numeri siano molto più bassi rispetto a quelli degli anni scorsi, ma continuano a partire. Per loro anche se poi sono aumentate le morti, il Mar Mediterraneo è diventato più pericoloso in questo 2000. Il Mar Mediterraneo centrale è la rotta diciamo, più letale, sicuramente in questo periodo con l'assenza di imbarcazioni di ricerca e soccorso, perché tra l'altro bisogna sottolineare questo, che l'Europa poco a poco in questi anni ha cominciato a ritirarsi dalle operazioni di ricerca e soccorso, nel frattempo diciamo, quasi ostacolando, sicuramente non agevolando, scoraggiando invece tutti gli altri interventi di salvataggio. E infatti, la notizia poi di queste ore è che nelle stesse ore in cui c'era la commemorazione a Lampedusa, Carola Rackete a Bruxelles abbia usato toni molto duri nei confronti dell'Europa, che si è girata dall'altra parte quando 53 persone in quel caso non sono state fatte sbarcare, sono state tenute a bordo. Lampedusa oggi è sicuramente al centro del Mediterraneo, ma al centro anche del dibattito L'Europa. europeo sulle migrazioni. Qual è il messaggio che possiamo portarci a casa a conclusione di una giornata come questa? Il messaggio è che sicuramente la cosa fondamentale è che la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e la protezione delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili come i minori, deve essere al centro e deve essere prioritaria rispetto a qualunque altra scelta. Cioè non si può continuare a proteggere i confini a discapito delle persone. La salvaguardia dei diritti umani fondamentali, la protezione delle persone deve essere il primo punto, perché le persone continuano a partire, nonostante, ripeto, i numeri siano inferiori, però abbiamo assistito, continuiamo ad assistere, sentiamo di questi, dei vari sbarchi. Quest'anno sono arrivate solo 7.700 persone, tra questi 1.000 sono bambini, Sono minori. ragazzi, adolescenti, cioè minori, che hanno fatto il viaggio da soli senza alcuna figura di riferimento. Queste persone, soprattutto sono questi minori, è importante che vengano considerati minori e non né migranti né rifugiati, indipendentemente dalle motivazioni che li hanno spinti a partire, che siano le guerre, le persecuzioni, la povertà estrema. Indipendentemente dalle rotte seguite o dal luogo di provenienza, questi minori devono poter trovare l'accoglienza e la protezione di cui hanno diritto, in Italia e in Europa. Giovanna, io ti ringrazio tantissimo, Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, ti ringrazio davvero tanto, buon lavoro e grazie tantissimo per questa tua testimonianza. Grazie a te, Ciao. grazie Giulio. In barca alla Tabaccara, abbiamo sentito delle urla che venivano da lontano, e quando siamo usciti abbiamo visto un'isola piena di gente a mare e noi abbiamo potuto recuperare 47, però loro insistivano sul fatto che c'erano molti bambini e purtroppo i bambini sono morti tutti e non abbiamo potuto fare niente. Il 3 ottobre del 2013, un peschereccio lungo appena 20 metri, con a bordo oltre 500 profughi, uomini, donne e bambini, si rovescia al largo di Lampedusa. Molti riescono a raggiungere l'isola a nuoto da soli, altri vengono risucchiati dalle onde, altri ancora, la maggior parte, rimangono intrappolati nella stiva. I loro corpi verranno recuperati dalla guardia costiera solo giorni dopo e allineati nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa. Nella stiva ci sono molti giovani uomini, ma ci sono anche donne abbracciate ai loro figli, alcune con le mani a coppa sulle loro bocche, nel tentativo estremo di dar loro qualche secondo in più di aria, mentre l'acqua invadeva tutto. Gente che gridava, alzavano le mani, quello che abbiamo potuto fare noi l'abbiamo fatto, abbiamo prestato soccorso, abbiamo salvato 18 vivi, erano 2 morti, 20 persone. Questa salvagente con le cime, con la scaletta, mettendoci anche noi fuori la barca per portarle su, perché scivolavano, che era piena di naftalina, di olio, naftalina, robe varie. Ce n'era un mucchio, gente che con le mani alzava in aria fuori dell'acqua, però calava giù, capito? No, erano stremati, insomma, dai. Ce ne siamo accorti perché venivamo verso il porto e la barca era davanti a noi, capito? E allora mio fratello dice: ma che butta la gente in mare? E così siamo andati vicino e abbiamo recuperato quello che c'era in mare, perché erano distanti uno dall'altro. L'abbiamo recuperato, la gente pure legando le cime nel corpo per tirarle su, perché erano stremate, non ce la facevano. Legarla, con una cima, io ero fuori barca, con la scaletta imbracata qui dai fianchi, e l'abbiamo tirata su. I morti l'avevano i ragazzi, non li lasciavano loro stessi, l'avevano tenuti per le magliette, capito? C'erano parecchi ragazzi nudi, la maggior parte tutti nudi erano, senza vestiti. Nei giorni successivi al naufragio del 3 ottobre, decine di familiari delle vittime raggiungono Lampedusa e poi Agrigento per avere notizie dei loro cari scomparsi e soprattutto per riconoscere i loro corpi. Qui inizia un'altra pagina del dopo naufragio, quella del riconoscimento. A oggi, però, decine di quei corpi recuperati dal naufragio del 3 ottobre non sono stati ancora associati ufficialmente a un nome e un cognome. e un attimo si sente uno schianto. L'immagine diventa nera e poi ritorna su. Il rescue swimmer si è appena tuffato e appena emerge dal casco hanno un piccolo altoparlante, gli comunicano a nord-est la direzione verso cui nuotare, che durante la tempesta ogni cosa è una pedina spostata sistematicamente dal mare, non sai verso dove andare e nuota alla cieca. E quella che noi in pratica sentiamo è quanto di più lontano da una nuotata. Il rescue sta facendo a calci e pugni col mare. C'è rabbia, c'è ferocia, perché ha fretta. Nuota selvaggiamente e riesce ad arrivare al relitto, ci arriva e ci viene svelata la figura umana. È un bambino alto così, aggrappato al legno. Il rescue si gira e c'è un'onda di 8 metri che sta per travolgerlo. Lui, il rescue, ha la capacità nei polmoni, nel corpo, per venire travolto, per resistere alla corrente, all'allenamento. Lui. Ma il bambino? Così nell'attimo in cui la classe 200 continua a salire e il relitto si abbassa per l'ultima volta, per non essere colpito dall'onda, nel momento dell'allineamento, il rescue compie l'unico gesto che può fare. Stacca il bambino all'abbraccio del legno e lo lancia nelle onde. E si vede il bambino volare. L'uomo della guardia costiera che si sporge in avanti, riesce ad afferrare il bambino per il polso e con lo stesso movimento riesce a lanciarlo nel portellone che si apre e si richiude. Arriva l'onda, travolge il rescue e tutto diventa nero. E l'immagine rimane nera per un tempo sterminato, 40 secondi, 47, 58, 60, 70, 87 secondi sott'acqua, finché finalmente si sente l'emersione. Si vede il puntino giallo che lo sta cercando, il rescue nuota per guadagnare lo scafo. Stacco, montaggio, siamo dentro lo scafo. Un marinaio avvolge il bambino nella coperta termica e lo porta nel cuore dell'imbarcazione, nella stanza più calda. Entra e appena il quarantenne li vede, salta in piedi. È suo figlio. Corre, si butta in ginocchio e bacia i piedi al marinaio che gliel'ha appena portato. Il video finisce con padre e figlio che si abbracciano, il marinaio che abbraccia loro. Allora io chiedo al rescue swimmer accanto a me: scusate, ma vi esercitate a lanciare i bambini in mare? Sì, è una situazione che si verifica abbastanza frequentemente. Ci esercitiamo utilizzando la palla medica. Così torno a casa, entro in cucina e preparo marmellata di arance per 3 giorni. Il terzo giorno Silvia mi dice: quanta marmellata devi continuare a fare prima di affrontare il fatto che ti sta succedendo qualcosa. Io ricordo tutto di quel momento. Stacco i fuochi, mi lavo le mani al lavabo, le asciugo con lo strofinaccio, mi vado a sedere a tavola, alzo il dito come per dirigermi e scoppio a piangere. Tantissimo. Piango da quando ho saputo che mio zio era malato, dal primo sbarco che ho visto, dalle parole che mancano, e tutte le parole si scontrano e continuano a piangere, premono per uscire fuori. Il pianto continua a tornare ancora oggi e in qualche modo però pulisce le parole, le rende più chiare, più precise. E quando ho visto il primo sbarco, mio papà mi aveva offerto una prospettiva, utilizzando come contraltare il tumore di zio Beppe, di suo fratello. Aggrapparsi a un proprio naufragio intimo, personale, sviscerarlo, nominarlo, capire in quale modo stiamo sopravvivendo a esso, scrivere le parole, dirle, per superarle, per affrontare il mare aperto, dovrai allenarti sulla terraferma.